America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on. Fly Me to the Moon, un classico di Frank Sinatra, fammi volare sulla luna. E beh, devo dire che Frank Sinatra sulla luna è andato davvero, perché è partito da un minuscolo paesino del New Jersey, subito al di là del fiume Hudson, al di là di Manhattan, Hoboken, una comunità di italoamericani, di afroamericani, di irlandesi che vivevano gomito a gomito, ciascuno nel suo quartiere. E naturalmente, partendo da questi vicoletti, nessuno avrebbe potuto immaginare che Frank Sinatra sarebbe diventato quello che è diventato, l'icona della musica leggera americana. Perché vi parlo di Frank Sinatra? Perché quest'anno si celebra il centenario della sua nascita. La HBO, la grande rete televisiva privata via cavo americana, che devo dire si è specializzata molto bene nella produzione di documentari, ha lanciato proprio un paio di giorni fa un documentario in due parti sulla vita affascinante, incredibile di Frank Sinatra. Come comincia la passione di questo bambino, di questo ragazzino che a 13-14 anni si innamora della musica? Sentiamo. Oh Danny boy, the pipes are calling. Bing Crosby. Bing Crosby è l'idolo di Frank Sinatra. Adora il modo in cui canta. Bing Crosby naturalmente è un personaggio nazionale negli anni 30-32, quando Frank ha 15-16 anni, e quindi mentre a casa col padre Antonio Sinatra, siciliano di Lercara Friddi vicino Palermo, con la madre di origine ligure Natalina Garaventa, lui si appassiona della musica, e naturalmente appassionandosi di questa musica, ascoltando le canzoni, la scuola non va benissimo, e mentre a scuola cerca, come dire, di dedicarsi allo spettacolo, comincia a fare delle imitazioni, comincia a fare dei piccoli spettacoli comici a scuola. E se facciamo un salto indietro negli anni 30, i professori, i maestri erano piuttosto severi, guai a uscire dalle righe. La madre lo asseconda, Frank comincia a cantare in piccoli locali del New Jersey come il Saloon Singer, questo stiamo parlando del 1931-1932, fino a quando c'è la prima svolta. My hair is curly, the man's got curly hair. Questo è il primo disco che Frank Sinatra ha registrato nella sua vita con gli Hoboken Four. Gli Hoboken Four è un gruppo di Hoboken, si chiamava Flash Trio prima, erano un terzetto, ma la madre riesce a convincerli che hanno bisogno di un cantante bravo e che quindi debbono diventare un quartetto, e quelli accettano. E le cose cominciano ad andare piuttosto bene, sempre in termini relativi, perché poi c'è la crisi degli anni 30, ma comunque vanno bene per Frank. Perché? Perché può cantare, può andare la sera nei locali e comincia a farsi le ossa, si accorge che deve fare di più, e a un certo punto, laddove non era riuscito a studiare bene a scuola, ha trovato un maestro di canto proprio lì a Hoboken, che diventa il suo mentore, il suo punto di riferimento, gli insegna i trucchi del mestiere, fino a quando, per un colpo di fortuna, questo Hoboken Four non finisce alla radio e viene ascoltato da un personaggio già piuttosto importante, da Tommy Dorsey, con la Tommy Dorsey Orchestra. What good would it do? For tears would fill my eyes. Ecco, questo è stato, come vi dicevo, il primo singolo, I'll Never Smile Again, lo registrò con la Victor Records, e questo disco ha raggiunto la prima posizione di vendita negli Stati Uniti per 12 settimane. Stiamo parlando, come vi dicevo, del 1939, del 1940, veramente Frank Sinatra è un ragazzino, è giovanissimo, ma è un idolo per le folle, un idolo per le ragazzine. In questo documentario della HBO di cui vi parlavo, un documentario che vi raccomando di vedere, e si vedono queste immagini di queste ragazzine bambine che potrebbero essere quelle che impazziscono per i Beatles, quelle che impazziscono per Elvis Presley. E devo dire, io non avevo visto questi spezzoni, perché poi Frank Sinatra noi lo conosciamo già maturo, il crooner, il cantante già ad una certa stazza. Eppure il suo inizio, la sua stardom, la sua stella, parte proprio con Idolo delle ragazzine, fino a quando non decide di lasciare Tommy Dorsey e firma un contratto con la Columbia Records. Fra il 43 e il 44 esplode. Pensate, fra il 43 e il 44 a quel punto ha 27, 28, 29 anni, entra ben 23 volte con 23 single nelle top 10 delle classifiche americane, incontra Bing Crosby. I due si vedono in uno spettacolo televisivo, c'è questo momento magico in cui si incontrano, Frank incontra il suo idolo e si rende conto di essere più popolare del suo idolo. Ecco, in questo periodo c'è una canzone però che in particolare colpisce Frank Sinatra, nel cuore di Frank Sinatra. È stato forse il primo single che ha registrato come cantante da solo nel 1939, lo ha registrato con un'altra band, e il titolo è All or Nothing at All. Sentiamolo nel 1982 in un concerto di beneficenza, mentre interpreta e spiega che è la sua prima canzone, All or Nothing at All, un momento emozionante, sentiamolo. Yeah, here's the song, ladies and gentlemen, boys and girls, the very first song I recorded as a professional singer with Harry James's orchestra. First time. New arrangement, Nelson Riddle. Ecco, qui Frank Sinatra è già maturo, è già la celebrità che ormai, come dire, vive di rendita, è una gloria del passato quasi, già nel 1982. Questa canzone è tutto o niente, diventa simbolica. Sentiamola adesso quando la registrò nel 1939, un altro documento che ho trovato pescando negli archivi. Nothing at all. Half a love never appealed to me. Ecco perché chiudo con questa canzone, questa puntata dedicata a Frank Sinatra. Perché il personaggio è talmente grande che avremo bisogno di due puntate. Domani torneremo su Frank Sinatra, a meno che non ci siano delle notizie sconvolgenti, per capire come si sviluppa la seconda parte della sua vita, quando diventa una star vera, consolidata, una star internazionale, una star mondiale, una star che comincia a avere influenza nella politica, nel business, che conquista le donne più belle del mondo, da Ava Gardner fino a Maya Farrow. Tutto o niente per Frank Sinatra significa le donne, significa i film, significa il cinema, significa sposarsi con Ava Gardner lasciando la prima moglie, Nancy Barbato, la madre dei suoi figli, Nancy Sinatra e Frank Sinatra Jr. Dunque chiudiamo con questa parte, con questo avvio della carriera di un cantante che è diventato un'icona della cultura americana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, quella che ho fatto sentire prima di Frank Sinatra, Tutto o Niente, chiaramente una canzone forse meno conosciuta dal grande pubblico ma molto importante per lui, ma un'altra canzone simbolo, veramente simbolo, di questo cantante è My Way. E dunque dedichiamo a lui la canzone del giorno, My Way, a modo mio, di Frank Sinatra. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!